Ah, ma la seggiola però si è portato lassù. Paolo, vedi impegnato. Sei a leggere quelle grosse? Quando ti ho imparato a leggere? No, sto imparando. E a te gli hanno voglia di ammenare a quella cosa? Le ostre. Non ho mai letto, voi ti contate con ostriche. Le parole, quelle nere, le parole. Anche le ostriche si è mangiate. Gli è il vostro, no? E il primo l'ha mangiato lui. Ma avete cotte anche le ostriche? Avete dato colpe? No, no, crude le ostriche. Le ostriche crude con limone. Ma le cose e pepe. Perché abbiamo mangiato botto? Io ho paura di quelle cose. No. Mi dispiace, tutti la prendono, due bottiglie stavano un euro, salvadenaio, è vero? L'acqua deve essere gratis per tutti. Ora la facciamo pagare, portalo via. Chi deve pensare che ora, da domani in poi ci penso io. Ecco, fa il salvadenaio. Chi deve pensare che nella vita sono in due le cose, chi dà e chi la prende. Chi la dà e chi la prende. Ma domani ci penso io, metto il salvadenaio lì. Oh, meno male. Se no smonto il rubinetto. E tappo. Ah, no, la chiudo. La chiudo. Se la vuoi. La chiudo. Prima si paga e poi si prende. Prima si paga e poi si prende. E se no, andate a comprarla al Conad. No, sì. Ma gli è malato? Ma il Beghi è malato? No, non so prima. Avete chi ne è? Questo è il Parigi. Che coltaglia dell'idraulico. Stasera mi devo riposare che domani mattina...